Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Scusi, mi sono persa. Potrebbe dirmi dov'è l'Hotel Majestic? Lei è molto sorridente e carina e mi è difficile ignorare qualcosa di così bello e disperato. Però purtroppo non saprei assolutamente come aiutarla. Le spiego che non sono di Bologna e non ho la minima idea di dove si trovi il suo hotel. Però se mi dà un minuto posso chiedere a qualcuno e tradurle l'informazione. Mi chiamo Carlo Mantovani, sono di Carpi, Modena. Come lavoro faccio tante cose, tra le quali il triathlon artistico. Mi occupo di scrittura, di scultura e di fumetti. Scusate, leggo un messaggio che mi è arrivato prima ancora di andare in onda, che dice: Matteo, stai ascoltando Destini Incrociati? Che emozioni, forza Milan, Gigi. Allora, io vorrei ascoltarlo perché mi piace moltissimo Destini Incrociati, però ho questo problema, che prima stiamo lavorando e stiamo preparando la puntata che va in onda di lì a breve, e poi che mi influenza al punto Destini Incrociati, che se io lo ascoltassi attaccherei così: scusi, mi sono persa, potrebbe dirmi dov'è l'Hotel Majestic? L'Hotel Majestic! Hotel Majestic. E quindi non posso. E poi, se si parlava di Milan, difficilmente riesco a stare concentrato. Che giorno è oggi? È mercoledì? Martedì? No, è mercoledì. È mercoledì 23 maggio 2012. Ho visto Bonini sparire da dietro il vetro e ho avuto la sensazione che fosse svenuto per un attimo. Scusatemi, chiedo scusa a tutti quelli che sono all'ascolto. È che di là dal vetro, in regia ci sono sempre il tecnico Paolino Corleoni, Tiziano e Margherita. Ho visto Tiziano sparire verso il basso, ma è tutto a posto, avvisiamo la mamma che è all'ascolto. Si doveva solo allacciare una stringa. Allora, visto che tutti quanti continuano a chiederci, l'abbiamo detto una volta, che faremo di nuovo come l'anno scorso il live di Voi Siete Qui, e sarà martedì 19 giugno 2012 alle 21, gratuitamente qui dalla sede di Radio 24 in via Ventrosa 91, e visto che avete cominciato a chiederci e a scriverci mi prenoto, allora sappiate che le prenotazioni quest'anno sono molto più semplici dello scorso anno. L'anno scorso abbiamo chiesto di mandare una mail indicando il numero delle persone e i nomi. Quest'anno è molto più semplice. Da domani, giusto? Da domani sul sito di Radio 24, alla pagina che vi indicheremo, alla nostra pagina, la pagina di Voi Siete Qui, ma comunque poi metteremo i link su Facebook. Se non avete Facebook, radio24.it, la pagina di Voi Siete Qui. Da domani ci sarà uno spazio apposta dedicato alle prenotazioni. Credo dobbiate semplicemente cliccare e forse registrare qualcosa, forse registrarvi, forse dovete registrarvi per accedere, cliccare e automaticamente vi prenotate per la serata. Vi ricordo, nella serata dello scorso anno io feci una sorta di riassunto di tutta la stagione, e nel live dello scorso anno io raccontai com'era andato, che cosa mi era accaduto nell'arco dell'anno. Quest'anno, visto che le storie sono vostre, i racconti sono vostri e i protagonisti siete voi, abbiamo proprio ribaltato la frittata. Quindi la cosa che vi chiediamo è: qual è il racconto che vorreste a tutti i costi riascoltare dal vivo, possibilmente con l'autore lì presente? Cercheremo un modo per farli arrivare. Anche per questo non mandate mail, non scrivete su Facebook. Ci sarà sempre da domani probabilmente una pagina dedicata a una sorta di sondaggio, in cui presi dall'ebook, presi dai 100 racconti che si trovano nell'ebook di Voi Siete Qui, saranno elencati uno a uno, e credo che banalmente voi dovrete cliccare su quello o su quelli. Quante scelte avremo? Credo uno. No, mi domando se ne può scegliere più di uno. Uno. Abbiamo deciso adesso in diretta. Uno, ragazzi, non di più. Quindi potete scegliere, cliccandoci sopra, il racconto che volete riascoltare. Quindi di fatto lo scegliete voi. Poi vabbè, adesso è una forma di iperdemocrazia a cui... No, certo che lo scelgono loro, Tiziano, ovvio che lo scelgono loro. Bonini, quando si parla di democrazia, va veramente, diventa rigidissimo. Chiaro che lo scelgono loro, in base appunto ai vostri gusti. Quello che voglio dire è che se poi magari ce n'è uno che a me piace particolarmente e non è stato scelto, magari ce lo infilo. Posso farlo. Ok. Vi ripeto la data del live: è 19 giugno 2012, alle ore 21. alle ore 21 nella sala collina di Radio 24, via Monterosa 91. Chi c'è già stato lo scorso anno già lo conosce, chi non c'è già stato venga pure, si trova, siamo vicino a Piazzale Lotto, comunque non è difficile da trovare. Domani vi rispiego ancora come prenotarvi, ok, attraverso il sito, attraverso la pagina di Voi Siete Qui, come prenotarvi e soprattutto come scegliere di fatto la scaletta del live del 19 attraverso i racconti che volete riascoltare. Veniamo alla puntata di oggi. Ah, c'è una roba sull'ebook, abbiamo avuto dei dati di scaricamento dell'ebook. Vi dico solo, scaricatelo in fretta perché altrimenti esaurisce. Se non l'avete ancora fatto, scaricate questo ebook, ragazzi, perché non so veramente quante copie ancora ne rimangono. Veniamo alla puntata di oggi. La storia di Carlo è la storia un po' di un simpatico marpione di Carpi, uno di quelli che quando vede una bella ragazza in difficoltà si fa in quattro per aiutarla, e di fatto l'aiuta, e quasi lui dice le ho salvato la vita. Il fatto è che questa persona non è una persona qualunque, questa persona scoprirà essere una grande musicista, che suona il pianoforte come solo lei e pochissimi altri sanno fare. Questo estratto è proprio preso da quel concerto di cui parla lui? O uno simile? Probabilmente sì, perché è un concerto in cui lei, che adesso vi dirò anche chi è, ve lo spiegherò attraverso il racconto di Carlo, suona insieme a Claudio Abbado. Sì, certo, non è che suonano a quattro mani, Abbado dirige l'orchestra e lei suona il pianoforte. 349-238-6666, oggi si parla di musicisti. Non è facile essere un musicista, è un mestiere complicato, è un mestiere che io invidio tantissimo e ammiro tantissimo, perché a differenza degli attori, categoria che un po' conosco per averci appartenuto, sono un po' più seri. Diciamo, l'ho detto. Cioè, per fare il musicista devi farti un mazzo tanto, devi studiare, devi applicarti, devi essere lì tutti i giorni. L'attore, dai, l'attore lo possiamo fare un po' tutti, no? Il linguaggio è lo stesso che usi tutti i giorni. Invece per la musica, anche per la danza è così, anche per la danza devi essere disciplinato e allenato. Insomma, tutto questo per dire che vivere con un musicista credo sia molto complicato, quindi 349-238-6666, ma anche 800240024. Se siete compagni, fidanzati, amici, coinquilini, ma anche se siete un musicista e volete ammetterlo, sì, è veramente un casino, perché suono 2 ore al giorno, perché l'unico vero obiettivo della mia giornata è la mia musica. 800240024, oppure via sms 349-238-6666. Un esempio, Francesca scrive: la bellezza è sentirsi dedicare un intero live in un piccolo studio di registrazione mentre fuori diluvia. Ancora Stefania: condivido la fatica di vivere con un musicista. Quando il mio compagno suona e si prepara per una serata e prova il suo Mark 7, parliamo di un sassofono, alle 9 di mattina di sabato, quando io vorrei dormire. Il piacere di vederlo felice come un bambino quando sale sul palco, però, è incredibile. Sabato con Tom Kirkpatrick per una piccola jam session. 800240024, 349-238-6666. Ma oggi soprattutto si parla di musicisti, si parla di pianisti. Sto passeggiando in via Indipendenza a Bologna, sotto i portici, e fa un freddo boia, perché è Natale vicino. Improvvisamente sento una voce che proviene da una ragazza con gli occhi a mandorla, probabilmente cinese, ma qui ammetto la mia ignoranza, perché non saprei riconoscere una cinese da una giapponese, da una vietnamita o da una coreana. Beh, quella voce mi parla in un inglese piuttosto impreciso e mi domanda: scusi, mi sono persa, potrebbe dirmi dov'è l'Hotel Majestic? È molto sorridente e molto carina, e mi è difficile ignorare qualcosa di così bello e disperato. Però purtroppo non saprei assolutamente come aiutarla. Le spiego che non sono di Bologna e non ho la minima idea di dove si trovi il suo hotel. Però, se mi dà un minuto, posso chiedere a qualcuno e tradurre l'informazione. Quel giorno praticavo l'arte del cazzeggio, però a Bologna ci vado anche per motivi di lavoro, ci vado per divertimento, per incontrare amici, per andare in libreria a vedere le ultime novità. Mi piace andare a Bologna o per andare a mangiare qualcosa. Bologna è la mia città preferita, cosa devo dire? Sono fortunato. Al primo tentativo un tizio col cappello mi spiega che l'hotel in questione è molto vicino, praticamente dietro l'angolo. Traduco e mi metto a camminare con lei, che continua a ringraziarmi. Mentre l'accompagno, gli occhi le brillano di felicità. La felicità di chi è sopravvissuto. A un certo punto sorride e mi ringrazia, mi spiega che l'avevo salvata. Girava a vuoto da più di un'ora e le mani ormai le si stavano congelando. Di nulla, rispondo. Le chiedo se è qui in vacanza. Magari, dice lei, suono il pianoforte e fra due ore ho un concerto. Intanto siamo arrivati. Lei guarda la porta dell'hotel e mi allunga la mano, protetta da un guanto completamente ghiacciato. Mi ringrazia ancora e mi dice il suo nome, che capisco poco. Me la immagino come la solita musicista in cerca di fortuna, come se qui fosse New York o Los Angeles, una di quelle che suonerebbero anche nello scantinato di casa mia, pur di sbarcare il lunario. Però mi appunto il suo nome sul palmo della mano, con una penna che ho in tasca. Spero di essermelo ricordato bene. Riprendo il percorso e faccio le mie commissioni. Sono contento di aver fatto una buona azione. Credo che se sei gentile con gli altri, in qualche modo poi gli altri saranno gentili con te. Arrivato a casa, digito il suo nome sul web e quando sullo schermo appaiono i risultati, un brivido mi percorre la schiena. Quella ragazzina alle soglie dell'assideramento che avevo aiutato a trovare una camera d'albergo era l'orgoglio artistico della Cina, la stella nascente della musica classica. E non suonava in una cantina, ma al teatro comunale, assieme a un mostro sacro come Claudio Abbado. Biglietti esauriti, presenza del sindaco, vescovo e tutti i notabili della città. Una serata speciale che mi era completamente sfuggita, ma che avevo vissuto in prima persona sotto i portici di Via Indipendenza. È una storia che nelle settimane successive racconto a parenti e amici come se fosse la più interessante del mondo. Eppure mi ha veramente colpito, forse perché le persone eccezionali si nascondono dietro l'aspetto di persone comuni, o forse solo perché volevo farmi vanto del mio bel comportamento. Non mi sono accorto di nulla, lei mi ha detto, ho un concerto, io ho pensato che fosse una concertista di quelle un po' gira il mondo, che per sbarcare l'unario avrebbe suonato anche nella cantina di mio nonno. Invece quando sono tornato ho detto, ma mi ricordavo questo nome, ho controllato e ho capito che io avevo, tra virgolette, salvato una rising star della musica classica. Uno dei miei colleghi rimane talmente colpito che a distanza di 3 anni mi telefona per avvisarmi che Yua Wang sarà di nuovo a Bologna per un altro concerto. Sono felice perché mi farebbe piacere incontrarla di nuovo. Contatto il teatro e grazie al tesserino da pubblicista riesco a strappare un'intervista. Per me in realtà è una specie di appuntamento. È impossibile che si ricordi di me, lo so, ma mi farà piacere lo stesso. Quando entro nella sala ci siamo solo io, lei e il pianoforte a coda. Ho le domande scritte su un foglio per non impappinarmi, ma lei, prima ancora che attacchi, mi guarda e mi riconosce subito. Si apre in un sorriso dolce, gentile. Io arrossisco, lo sento, soprattutto quando mi chiede se almeno stavolta riuscirò ad andare a sentirla suonare. Chiacchieriamo di tutto, tranne che delle domande che ho sul foglio. E poi, finalmente, mi ritiro soddisfatto. Il concerto sarà bellissimo. Nobody fully, always one foot on the ground, and by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind, all of these voices I hear in my mind, all of these words break my Io non suono uno strumento perché quando c'era da distribuire la voglia di sacrificarsi sono finito nella coda sbagliata. E l'ho capito praticamente subito alle medie, quando facevamo lezioni di flauto dolce e io invece che soffiarci dentro mi divertivo a usarlo per colpire le palline di carta, quelle che mi lanciavano i compagni. Suonare uno strumento vuol dire impegnarsi a studiare la musica, le note e gli intervalli, le scale e gli accordi, la melodia, l'armonia, un sacco di cose che quando ascolti la musica non c'è bisogno. E io non ero uno da studiare tanto, quindi la musica l'ho sempre ascoltata, anche con un po' di invidia che hai verso chi ha talento. E poi chi suonava la chitarra si sa, no? Che sulla spiaggia raduna le ragazze, e lo capisco perché anch'io andrei vicino a uno che suona la chitarra. Perché la musica è sempre meravigliosa. E se uno la fa, probabilmente è una bella persona, eh? Forse, o forse no. Io canticchio, una volta ho anche provato a suonare la batteria, perché è l'unico strumento che ci vuole solo coordinazione e senso del ritmo, e quelle lì non mi mancano. Insomma, proprio il pentagramma non devi conoscerlo. Pensando alle vite dei musicisti, ho capito una cosa. Ho capito che sono diverse da quelle degli altri artisti. E penso ai pittori, agli scrittori, soprattutto agli attori. Perché lo studio, nella vita di un musicista, è una parte gigantesca e continua sempre, non finisce mai. Necessita una disciplina che forse ad altri non serve. E allora mi chiedo se forse il musicista sia una persona generalmente diversa. Ad esempio come il maratoneta diverso dallo sciatore. Cioè, tutti e due sono sportivi, però hanno caratteri chiaramente diversi. Che lo so che generalizzare è sempre sbagliato, però ogni tanto vale la pena farlo, no? Per cui lo sciatore è un appassionato di neve, di velocità, delle montagne, dell'aria pulita e del bombardino con gli amici nei rifugi. Il maratoneta invece è uno che vuole misurare i propri miglioramenti, uno che sfida se stesso, che non trova piacere del luogo dove corre, ma del fatto di correre in sé. Uno che si misura, si pesa, si monitora con strumenti tecnologici, che gode la propria soddisfazione quando lo sforzo è finito. Lo sciatore invece quando finisce la discesa è dispiaciuto. Il maratoneta fa un sacco di stretching e sta attentissimo alla dieta. Fa esercizi di molti tipi e soprattutto corre, corre e corre. Non voglio sminuire nessuno, e sia chiaro, solo che i caratteri di una pianista classica e di un pittore surrealista o di un attore di fiction possono essere molto diversi. Una ha necessità di rigore e di costanza, è coriacea, combattiva. Le altre invece possono agire più di passione, più di impulso, e di fronte a un impegno quotidiano e ineludibile forse rischiano di arrendersi. Non lo so. Ma quando mi sono immaginato Yuwa Wang, ho pensato a una donna magra e decisa, sorridente e mai disposta a rinunciare alle sue ore di studio quotidiano. Che non perde tempo con altre attività secondarie. Una maratoneta dell'arte. Insomma, una tosta. We are so free to change and talk to me. It shows me quando stai con un musicista, sai che non sarai mai la cosa più importante della sua vita. Come sai che non puoi programmare una vacanza estiva, ma che nemmeno la serata successiva. Sai che la domenica in cui potrai finalmente dormire, a lui arriverà alle 6 di mattina un'ispirazione che aspettava da mesi. Comincerà a suonare e non smetterà per 3 giorni. Non è per tutti. Il vederlo depositare in sé una canzone, per te però, ripaga tutto. Valentina. 349-238-6666, ma anche 800-24-0024 se vivete con un musicista, se avete vissuto con un musicista, se è il vostro compagno, marito, fidanzata, se anche siete solo dei coinquilini, o se siete i genitori di un musicista e volete raccontarci com'è, quanto è complicato e quanto è meraviglioso anche vivere con un musicista, dopo la borsa 800-24-0024, ma anche sono mamma di un pianista, ecco qua, sono mamma di un pianista di 14 anni, tutto, ma proprio tutto nella nostra vita gira intorno a lei. Wow, non so quanto giri della vita di Carlo intorno alla pianista che ha incontrato, però sicuramente una parte importante, direi di sì. Pronto Carlo? Cos'è sta cosa? Ma guarda, sei simpaticissimo Carlo, proprio già solo così, un'apertura, l'apertura di una telefonata così è la prima volta che mi capita. Dove ti trovi Carlo? Ma sono nel studio. Sei in studio? Cosa? Sì, nel studio L'Auto della Provocazione, che è una società di tipo di stampo satirico che io e un mio collega grafico abbiamo fondato, Pia Carpi. Niente, volevo dire una cosa, che Yuwa Wang per me è un discorso chiuso da quando ho saputo che è fidanzata col suo produttore, un francese di primo ordine, che le ha fatto stipulare un contratto di 5 anni con la Deutsche Grammophon, la più grande casa di produzione della musica classica. Ma scusami Carlo, ma era già fidanzata con lui? Sì, però lei mi ha guardato in un certo modo, devo dire, e mi ha detto: c'è un biglietto per te, se questa volta vuoi venire, ma ti rendi conto? No, guarda. Ma... ma scusa, no, Carlo, rimaniamo qua un secondo. Ti ha dato questo al secondo incontro, giusto? Qua... Sì, quando mi ha ricevuto in questa sala. Quando ti ha ricevuto nella sala. Gli stucchi, li chiamo po'. Ok. Pianoforti come ho scritto, insomma. Sì, sì, sì. Quindi, scusami, di fatto c'è stato un avvicinamento, una forma di simpatia tra voi c'è stata? Sì, sì, ma abbiamo reso come io e te adesso. Se non che tra io e te certamente ci sia qualcosa, però... No, no, questo insomma... Ci siamo molto divertiti, è stata però un'intervista, una chiacchierata con un'amica, ecco. Sì, sì, sì, ho capito, ho capito. Ma tu quanti anni avevi all'epoca? Io avevo 2 anni diverso, cioè 42. E lei quanti ne aveva? E lei quanti ne aveva? 24, amazing. Carlo, scusa un attimo, siccome parli a 200 all'ora mi sono perso un pezzo dell'inizio. Mi ripeti la tua società, tanto ormai la marchetta l'abbiamo fatta. Mi ripeti come si chiama la tua società? Ah, niente, è una società, è un sodalizio artistico, diciamo, si chiama Outlet della Provocazione. Outlet ecco della Provocazione, sì, sì. Ok, ok, e cosa fate esattamente? Ma per esempio adesso stiamo parlando fuori un news in cui si dice che terremoti in Emilia, io sono di Carpi, l'ho vissuto personalmente, prima persona, terremoti in Emilia, Bersani ha convinto che l'epicentro fosse in Emilia, fosse a Parma, scusate. Sì. Perché a Parma c'è stato un terremoto politico, sì. No? Diciamo. Senti, invece dimmi due parole, dov'eri quando c'è stato il terremoto? Eri a letto chiaramente o eri in giro? Ero a letto e mi sono svegliato con una tachicardia pazzesca, non capivo, pensavo... Non stavo seguendo Use Wonde comunque. Ok. Posso dirlo chiaramente. Vivi da solo? No, adesso sono sposato per ripicca con un orientale. Ah, no, scusami, perché tu mi dai veramente la sensazione di un cane sciolto, invece no. No, cioè sono sciolto nei modi, ma non nei vincoli. Sei sposato con un orientale che hai trovato come? Ah, l'ho trovata a Reggio Emilia. Poco dopo, devo dire, penso che questo incontro con Use Wonde mi abbia portato. L'abbiamo introdotto la sua scala della finta, diciamo. Sì. dell'Oriente. Ma sei straordinario. Caro, alla fine di ogni frase ti fai una risata da solo. Senti, lei di dov'è però? Lei è filippina, ma metà cinese. Ok, avete dei bimbi, li farete? No, not yet, però... Not yet. Coming soon, come si dice, sempre in inglese, perché noi parliamo in inglese. Ah, ok. E lei cosa fa, scusami? Lei attualmente si occupa di Carlo Mantovani, perché il mercato è fatto. Si occupa di Carlo Mantovani, ma sei un genio, Carlo Mantovani è lui, lo dico per quelli che non avessero capito. Carlo, ti saluto anche perché sembra che stiamo parlando con un telefono satellitare. È stato più facile parlare con Simone Moro ieri che era sull'Himalaya che con te che sei a Carpi, perché fai questi 10 secondi di pausa. Senti Carlo, ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo per tutto. Ok. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Niente, a un certo punto poi si stufa Carlo e ti dice ciao e mette giù. Voi siete qui. Carlo Mantovani da Carpi è chiaramente un folle, è un simpaticissimo folle, si vede anche dalla foto che ci ha mandato, andate a vederla sul sito di Radio 24, la pagina Voi siete qui, è una foto di un primissimo piano completamente pixelata, cioè il viso di Carlo Mantovani è un insieme di quadratini luminosi. E quindi si capisce ben poco. 349-238-6666 800-24-0024. Il problema del musicista, scrive qualcuno, è che la musica occupa troppo spazio e pensieri nella sua testa. L'importanza delle cose deve sempre fare i conti con il suonare. Andiamo subito a Foggia, sentiamo Margherita che ha fatto qualcosa di importante per, diciamo, allontanarsi da un musicista. Pronto Margherita? Salve Matteo. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Senti, tu sei... Di fatto tu per allontanarti ti sei separata da tuo marito? Sì, ho proprio divorziato. È presente nel film A qualcuno piace caldo, Marilyn, quando dice «Oh, i sassofonisti!» Ecco, è esattamente questo. Cioè, non me lo ricordo bene, spiegamelo tu Margherita. Nel senso che sono praticamente imprendibili, intenibili e hanno un incredibile glamour sul sesso femminile. Cioè, hanno un grande appeal, tu dici, insomma, i musicisti molto, piacciono molto alle donne. Molto. Okay. Per cui la loro vita è divisa tra il sassofono e le serate che finiscono... Non si sa come, non ho mai voluto indagare molto di più. Ma quindi tu, però... scusami, hai scoperto qualcosa o ti sei solo stancata di dubitare? No, mi hanno anche chiamato per dirmi, oh guarda, qui sta uscendo, tra un po' arriva a casa. Però è proprio il fatto di dividere la propria vita con un ego enorme che i musicisti credo che comunque abbiano. Senti, ma non è mai abbastanza compensato. E il tempo invece dedicato alla musica, allo studio, anche quello. Appunto, l'ego viene continuamente alimentato da studio, per cui non esiste, come diceva la signora, estate, serate, da soli, niente che sia si possa scindere dalla performance musica. Che deve essere fatta la sera stessa. Margherita, stai con un ingegnere adesso? No, assolutamente no, un consulente energetico. Benissimo, in bocca al lupo Margherita, grazie. Anche a voi, salve. Ciao, buona giornata. Salve. Io risponderei alla telefonata di Margherita con la telefonata di Daniele, che è un musicista che è stato lasciato dalla moglie perché suonava. Pronto Daniele? Sì, ciao, ciao, grazie per essere qui, come stai? Grazie, bene tu? Bene, bene. Senti, spiegami tu che strumento suoni e lei ha addotto come scusa il fatto che suonavi troppo o che facevi serate come il marito di Margherita? No, no, la scusa sostanziale è la gelosia, Matteo. Questa è la... Quindi parliamo della stessa cosa, ma non sei l'ex marito di Margherita? No, ma che comunque penso che più o meno siamo lì, non è che... Che strumento suoni, Daniele? Io sono, diciamo, un po' di strumentista, faccio musica rock e in 28 anni di musica ho imparato a suonare tutto, tranne i fiati, batteria, basso, chitarra, tastiere. E quanto tempo dedichi alla musica al giorno? Ma adesso pochissimo, adesso mi sto dedicando ai miei figli, sto insegnando loro a suonare per la grande gioia di mia moglie. Perché che bastardo che sei, perché i tuoi figli vivono con tua moglie? Come vi dividete? Io vivono con mia moglie. Pronto? Sono qui. Quindi e passano del tempo con te. Nel tempo in cui stanno con te, tu gli insegni a suonare. Sì, sì, ma c'è un progettino in piedi. Aspetta. Qual è il progettino? Il progettino è una scuola di rock. Non ho soltanto messo in pratica ciò che si è visto qualche anno fa sui film americani, sì, tipo School of Rock, sì. No? Cose del genere, e funziona, devo dire che funziona, però non è che alla grande. Io ho quattro ragazzini sotto di me, cioè i miei figli Valerio e Federico, che hanno rispettivamente 14 e 12 anni. Sì. Ho una cantante con una voce favolosa di 13 anni, un chitarrista Matteo di 14, e me li sto portando avanti piano piano. Ma come si chiama il gruppo? Il progetto si chiama Masters Guys. Master cioè Guys. I ragazzi del maestro. Sì, sì. Ma si trova qualcosa su internet in giro? No, sì, vabbè, su YouTube trovi qualcosa. Su YouTube trovi qualcosa. C'è sti Master Guys, è ancora tutto, adesso li sto facendo giocare. In divenire. Stiamo divertendo. Va bene, Daniele. Ti hanno chiuso? Mi hanno chiuso dietro la batteria e io suono la batteria in quest'altro. Ah, tu suoni nel gruppo, ok. Daniele, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Mia sorella vive a Bruxelles, il suo compagno è brasiliano e suona il clavachinho, bravissimo, ma vivere insieme, vivere con lui e con la sua musica presente ogni giorno in mezzo a loro. Lilia, passiamo alla puntata di domani, perché per la puntata di domani devo chiedervi una cosa oggi. Nella puntata di domani, che è la storia di Andrea, si parla della propria città o del mondo visto dall'alto. E quindi la cosa che vi vorrei chiedere a partire da adesso fino a domani è di postare sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, o mandarci via email a voi siete qui @radio24.it una foto del vostro luogo preferito, che sia la vostra città, che sia la vostra casa al mare, che sia un punto in mezzo a un bosco in Svezia vista dall'alto. Se volete usate Google Map, se avete invece una foto che avete scattato voi dall'alto, da in cima a un terrazzo, qualunque sia, una foto del posto che preferite vista dall'alto. Matteo Caccia, io sono qui, oppure voi siete qui @radio24.it. Grazie a tutti quelli di là dal vetro e quelli che sono a casa. La storia di oggi era la storia di Carlo, parlava di musicisti. Quella di domani è appunto la storia di Andrea e parla della vita e del mondo visti dall'alto. Mi piace vedere dall'alto le cose che ho scoperto esistere solo leggendo una rivista oppure una guida turistica. L'estuario paludoso di un fiume, un vecchio forte coloniale abbandonato, aeroporti lontani, vulcani e crateri lasciati dai meteoriti. La mia vera passione, però, sono i relitti.